Bibbia Martini, Atti degli Apostoli 23. Paolo dinanzi a sacerdoti, e a tutto il consiglio dice al principe dei sacerdoti, che egli è una muraglia imbiancata, ma li scusa, dicendo di non aver saputo che quegli fosse il principe dei sacerdoti, avendo detto, se essere fariseo, ed essere in giudizio per la causa della risurrezione de morte, ne nasce gran contesa tra i farisei e i sadducei. Il Signore la notte incoraggisce Paolo, predicatologli, che anche in Roma lo confesserà. Scopertasi una congiura di molte persone per togliere la vita a Paolo, il tribuno lo manda a Cesarea attorniato da soldati al preside Felice con una lettera, che è qui riportata. E mirato fissamente il sinedrio, disse Paolo, «Uomini fratelli, io con tutta buona coscienza mi son portato dinanzi a Dio fino a questo giorno. Ma il principe dei sacerdoti Anania ordinò a circostanti che lo percuotessero nella bocca. Allora Paolo gli disse, percuoterà te Dio, muraglia imbiancata. E tu siedi a giudicarmi secondo la legge, e contro la legge ordini, che io sia percosso. Ma i circostanti dissero, tu oltraggi il sommo sacerdote di Dio? E Paolo disse, fratelli, io non sapeva che egli è il principe dei sacerdoti. Impero che sta scritto, non oltraggiare il principe del popolo tuo. E sapendo Paolo, come una parte erano sadducei, e l'altra farisei, disse ad alta voce nel sinedrio, uomini fratelli, io son fariseo, figliuolo di farisei. Sono chiamato in giudizio a cagione della speranza della risurrezione dei morti. E detto che gli ebbe questo nacque disparere tra i farisei, e i sadducei, e la moltitudine fu divisa. Impero che i sadducei dicono non esservi risurrezione, né angelo, né spirito, i farisei poi confessano ambedue queste cose. E vi furon de clamori grandi. E alzatisi alcuni dei farisei contendevano, dicendo, non troviamo male alcuno in quest'uomo. Chissà, se uno spirito o un angelo gli abbia parlato. E suscitatasi una gran dissensione, temendo il tribuno, che Paolo non fosse da essi fatto in pezzi, ordinò, che scendessero i soldati, e lo traessero di mezzo a coloro, e lo conducessero agli alloggiamenti. E la notte seguente gli apparve il Signore, e disse, fatti animo, impero che siccome hai renduto per me testimonianza in Gerusalemme, così fa duopo, che tu la renda anche in Roma. E fattosi giorno si unirono alcuni dei giudei, e anatematizzarono se stessi, dicendo, che non avrebbero mangiato, né bevuto, finché non avessero ucciso Paolo. Ed erano più di 40 quelli, che avevano fatta questa congiura, i quali andarono dai principi dei sacerdoti, e dai signori, e dissero, ci siamo obbligati con anatema a non prender cibo, finché non ammazziamo Paolo. Ora dunque voi col sinedrio fate sapere al tribuno, che lo conduca alla vostra presenza, come se foste per riscoprire il qualche cosa di più sicuro intorno a lui. E noi prima che egli vi si accosti, siamo pronti a ucciderlo. Ma avendo un figliuolo della sorella di Paolo avuta notizia di queste insidie, andò, ed entrò negli alloggiamenti, e ne diede parte a Paolo. E Paolo chiamalo a sé uno dei centurioni, disse, conduci questo giovinetto al tribuno, perché ha qualche cosa a fargli sapere. E quegli lo prese, e lo condusse al tribuno, e disse, quel Paolo, che è in catene, mi ha pregato di condurre a te questo giovinetto, il quale ha da dirti qualche cosa. Allora il tribuno presolo per mano, si tirò con esso in disparte, e lo interrogò, che è quello, che tu hai a farmi sapere? E quegli disse, i giudei si sono accordati a pregarti, che domani tu conduca Paolo al sinedrio, come per esaminarlo più diligentemente, ma tu non fare a modo loro. Impero che tendono insidia a lui più di 40 uomini dei loro, i quali hanno anatematizzato se stessi, che non mangeranno, né berranno, sino a tanto che non l'abbiano ucciso. E adesso stanno preparati, aspettandosi, che tu loro il prometta. Il tribuno adunque rimandò il giovinetto, ordinandogli di non dire ad alcuno di avergli notificato tali cose. E chiamati i due centurioni, disse loro: mettete all'ordine 200 soldati, che vadano fino a Cesarea, e 70 cavalli, e 200 uomini armati di lancia per la terza ora della notte. E preparate le cavalcature sulle quali Salvo conducessero Paolo al preside Felice, e scrisse lettera di tal tenore Claudio Lisia a Felice: ottimo preside, salute. Quest'uomo preso da giudei, e vicino ad essere ucciso da essi, sopraggiunto io co soldati lo liberai, avendo inteso com'egli è romano, e volendo sapere di qual delitto lo accusassero. Lo condussi al loro sinedrio, ma trovai di egli era accusato per conto di questioni della loro legge, senza però avere delitto alcuno degno di morte, o di catene. Ed essendo io stato avvertito delle insidie ordite contro di lui, l'ho mandato a te, intimando anche agli accusatori, che la discorrano innanzi a te. Sta sano. I soldati adunque, secondo l'ordine dato ad essi, preser seco Paolo, e lo condusser la notte ad Antipatride. E il di seguente, lasciando i cavalieri, che andasser con lui, ritornarono agli alloggiamenti. E quegli entrati in Cesarea, e data la lettera al preside, gli presentarono Eziandio Paolo. E lettala il preside, e interrogatolo, di qual paese egli fosse, e sentito, che era di Cilicia, ti ascolterò, disse, arrivati, che siano i tuoi accusatori. E ordinò che fosse custodito nel pretorio di Erode. Note 23,1. Con tutta buona coscienza mi sono portato dinanzi a Dio e ci, senza affettazione o ipocrisia, sono vissuto sino a questo giorno nella maniera che parvemi più accetta a Dio, da principio secondo le regole dei farisei, di poi secondo Cristo. 23,2. Ma il principe dei sacerdoti Anania e questi fu figliuolo di Nebedeo, e si dice che tenne il pontificato 16 anni. E gli ordina che Paolo sia percosso nella bocca, come per aver bestemmiato con dire di aver camminato sino allora secondo Dio. 23,3. Percuoterà te Dio, muraglia imbiancata. Gesù Cristo avea chiamati gli scribi sepolcri imbiancati, esprimendo così la loro ipocrisia. Ed è proprio dei profeti non meno il reprimere talora con forza e con libertà i nemici del Signore, che il tendere l'altra guancia, allorché sono stati battuti in una. E quelle parole dell'Apostolo, percuoterà te Dio, non sono una minaccia, ma una profezia, la quale ebbe il suo adempimento raccontato da Giuseppe Ebreo de Bello Lib 2, capitolo 32. In tutto questo non ebbe parte né l'ira, né l'impazienza, ma il vero zelo della giustizia. E di ciò è anche una manifesta prova la risposta piena di umiltà data da Paolo a chi lo avvisò, che il personaggio con cui parlava era il sommo pontefice. 23,5. Fratelli, io non sapeva, e ci Paolo, per molti anni era stato in paesi lontani da Gerusalemme, e in tutto quel tempo non aveva riveduto quella città, se non alcune volte per pochissimi giorni, e di più tale era in che tempi l'anarchia, e la confusione di tutte le cose, che non osservandosi più alcun ordine nella successione dei pontefici, e comprandosi le più volte quella dignità a denaro contante, si videro talora dei pontefici di pochi giorni, onde non è maraviglia, se non sapesse, che Anania era rivestito del sommo sacerdozio, e può anche essere che egli poco prima ottenuto avesse quel posto. 23,6. Una parte erano sadducei, e l'altra farisei, e di queste due sette si parla più volte nei Vangeli, come abbiamo veduto. Anania era sadduceo al dire di Giuseppe, Antic. 28. In questo fatto mostrò l'Apostolo di saper unire per difesa di una ottima causa la prudenza del serpente alla semplicità della colomba. 23,7. E la moltitudine fu divisa. Il ceto dei senatori si divise in due partiti, uno favorevole e l'altro contrario all'Apostolo. 23,8. Non esservi risurrezione, né angelo, e ci negavano la vita futura, negavano che, eccettuato Dio, vi fosse cosa non soggetta ai sensi, negavano finalmente che le anime sopravvivessero ai corpi, e negavano per conseguenza la risurrezione. Alcuni vogliono che credessero che Dio stesso fosse corpo. I farisei poi confessano ambedue queste cose. E la vita futura, e l'esistenza degli esseri incorporali, cioè degli angeli, e degli spiriti. 23,11. Fatti animo. Imperocché, e ci così il Signore viene ad assicurarlo, che tutto il furore dei suoi nemici non potrà nuocergli, perché altri disegni sopra di lui, i quali saranno eseguiti. 23,12. E anatematizzarono se stessi, dicendo, e ci fecer voto accompagnato da gravissime imprecazioni, quando avessero mancato di ridurlo ad effetto, come di essere cacciati dalla sinagoga, di essere sterminati, e ci 23,15. Voi col Sinedrio fate sapere al tribuno, e ci impiegate l'autorità di tutto il senato della nazione, affinché il tribuno non possa disdire. Prima che egli vi si accosti, siamo pronti a ucciderlo. Lo uccideremo prima che egli giunga al luogo, dove voi sarete adunati, affinché non abbia a sospettarsi, che abbiate voi parte all'impresa. 23,21. Aspettandosi, che tu loro il prometta. Al tribuno non era ancora stato parlato di condur Paolo al Sinedrio, onde dice il giovinetto, che i giudei si aspettavano, che egli non avrebbe rigettata la loro domanda. E con tal sicurezza stavano preparati per fare il loro colpo. 23,23. Per la terza ora della notte. Non tanto perché in un paese, qual è la Siria, era più comodo il viaggiare di notte in tale stagione, quanto per porre Paolo in sicuro prima che i suoi nemici potessero o saperlo o tentare altre cose contro di lui. 23,24. Al preside Felice. Questi era fratello di Pallante, uomo che godeva tutto il favore di Claudio Cesare. Di questo Felice scrive Tacito, che essendo stato mandato al governo della Giudea, affidato alla potenza del fratello, era persuaso che impunite sarebbero rimase tutte le sue iniquità. Annal. 12,23,31. Arens e Petraid. Città a mezza strada tra Gioppe e Cesarea. Fu fabbricata da Erode il Grande, e così nominata in onore di Antipatro padre dello stesso Erode. 23,32. E il di seguente lasciando i cavalieri. Ritornarono e ci cessando ogni timore di qualsivoglia attentato per parte dei giudei a motivo della distanza da Gerusalemme, non era più necessaria tanta gente. 23,35. Nel pretorio di Erode. Nel palazzo pubblico, dove stava lo stesso preside, il qual palazzo era stato fabbricato da Erode. Ivi pure convien dire che fosser le pubbliche prigioni,